cosa ti fa zimare? Oh, issa! Giuseppe, ci sei, Giuseppe Leoncini Barratto. Ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Ho capito, siamo sui radio. Cosa è che sei dicendo? Stavo cercando, ci sei Giuseppe Leoncino, ma non veste. Non c'è Leoncino, oggi non ce l'ha, ce l'ha fermo. Bacchisio. Venga Bacchisio, Bacchisio, Gio. Bari Bacchisio, bariga. Perché sei basso di audio, mi. Basso di audio sono, anche adesso. Io di solito ti ascoltavo forte di radio, ma oggi sei basso, mi. Un strano con chi sta a radio, che sia basso, boh, forse che non uso come idratelli. Magari è quello, ma che microfono c'hai? Microfono non va. Tiro il suo originale. Oh, cosa vuoi dire? Ah, adesso che so. Comunque già ti ascolto lo stesso, ho sollevato la pelle per il più volume. Sì, ma me ne devi sentire più bene, no? Un po' più forte. Ma appena però. Oh, strano. Strano, strano proprio. Strano essere però. Se poi so che no, non ero drattelli. Per quello che non lo stavi mai più usando, ecco perché ti fa così. Sì, vabbè dai, io sto facendo una cosa bella. Stai facendo l'amore. Sì, c'è il coso acceso. Il ricevitore? No, la 27, quella della 27 c'ho anche acceso. Ce l'ho acceso anche io la 27, ma sono su 14, stavo facendo delle prove. Stavo sistemando un microfono di quelli di M1000, ma boh, ho cambiato il coso e c'è scarica lo stesso, bisogna controllare vedere cosa cavolo c'ha. E avere qualche falso contatto il rifiuto del CDC. Il pulsatino della portante. Sentino PLL. Cosa vuoi? No, non è il tastino PLL, quello è il tastino del coso, della PTT si chiama. Sì, mi sono sbagliato io, PTT. Appunto. Io sono su 14-27, ma non c'è sta nessuno, non c'è sta. Sì, poco fa stavo parlando 27-4 e 25. Con questi di coso, Bergamo e Roma. Stamattina c'è la propagazione, l'ho sentita anch'io, quando stavo sistemando un baracchino. Stavo appena chiuso, gli ho messo lo Smith, come ci ho messo lo Smith dopo 30 secondi, accendo fumata bianca, ho dovuto cambiare le cose, protezione dell'accensione e dello squelch, perché è andato in tilt, è andato. L'ho cambiato, adesso meno male funziona benissimo, l'ho chiuso, è perfetto. Io che dato gli abbigliati di aggiuntare un abbassi. Sì, l'ho 37, l'ho trovato l'altro giorno, è un demonio. C'ha un audio allucinante in trasmissione. Per la macchina è riuscito stato un canale, nero. Ce l'avrei conosciuto, l'ha avuto anche l'angelo delfino. Andi. È bello, c'è un audio in trasmissione che è una cosa allucinante. C'è monta tre finali, monta addirittura. Funziona anche con due, perché io gli avevo staccato il primo e funzionava col secondo. Sì, andava bene. Bello, bello. Quella parecchio è bello, veramente. C'è una trasmissione allucinante. Quella per la macchina è bello. C'ha la... come si chiama per regolare i watt in ingresso d'uscita, eccetera eccetera. E io ne devo prendere uno per poterlo usarlo in macchina anche, alla 27. Dipende da quanto vuoi spendere. Cos'è? Dipende da quanto vuoi spendere, ho detto. Per metterlo in macchina avresti pigliato il tuo omologato. Questo qua che ho io non è mica omologato, la 87, noi. Se ti beccano quello, già sei in bande. No, se prendo uno omologato per usarlo in macchina, piccolo, 40 canali omologato. Guarda che Marco c'ha un 3009, mi sembra, se non mi ricordo male, Marco Conto. È omologato e non l'ha modificato. Se vuoi poi lo modifichi tu dentro. Basta che lì gli agganci il porticello e ti dà 271 canali. Capito? però è bello, è veramente bello, è uguale al 3009 quello che ho io. Chissà quanto ne bu? Basta, boh, telefonargli al limite, gli telefoni gli occhieri, quanto ne vuole. È bello comunque omologato, poi ne ha uno con frequenzimetro lo stesso, omologato lo stesso, non l'ha mai toccato. E quando entra in frequenza glielo chiedo? Ma sa che con i telefoni non lo so, lo chiamo io, lo faccio entrare, ma il 27 non sta più entrando, manco in PME non l'ho più sentito. Se no magari ti metti l'acqua insieme a lui e te lo compri. Bello, nuovi nuovi sono, c'hanno anche la scatola. Marco, quello che entra sempre, che ti dice che deve mangiare, quello lì? Eia. Già ci sentiamo ogni tanto. Allora, quando lo senti chiediglielo, se c'ha, che già ne ha palati lui, omologati. C'è un 3009, poi c'era uno con frequenzimetro addirittura. Se te lo vende, ti metti d'accordo e te lo prendi. Sono belli quelli, sono veramente belli come apparati. Nuovi, nuovi, nuovi fiammanti sono. Sì, me ne volevo un bel TV. Io non ne spendo molti soldi, ma me ne serve uno piccolino, più che altro per metterlo in macchina, per quando vado fuori. Ho capito, vabbè, tu vuoi spendere intorno ai 50-60 euro, lui, non penso che lui sia 60 euro una cosa del genere. Aspetta che ce n'era uno, te lo do io. Chi è avanti? Chi è che stava dicendo? Dipende da chi sei. Il barbiere? Boh, non lo conoscono. Ah, lo conosco io il barbiere, quello del monte. Dite che è vicino a casa. Mi dice che è vicino a casa. L'unico barbiere civile che conosco io è al monte lì. Vicino a Lucca rimane. Come si chiama? Via Suci, no, via Sicilia, ma non me la metto più. Vabbè, comunque già mi hai capito, quello per andare poi a Ponte Nuovo. Ah, che? Ah, vedi che Gio Maria, te l'ha detto che era il barbiere, Figaro. E lui Gio Maria. Ma cosa da voi, cantina? Aspetta, forse non ti sente, Antonello, non ti sente forse. Non l'ascolti, no, Antonello, Gio Maria, no? Ma roba in cantina, in campagna, in dire, perché non lo sento per niente, proprio nulla, nulla, nulla, non che non si è usato di quei brondi per parlare con te, quelli a 50 milliwatt. No, c'ha il portatile, c'ha, e deve essere in una zona un po' chiusa, forse per quello sta arrivando anche basso. Sì, stava usando quelli brondi omologati da 10 milliwatt, stava usando senz'altro. Oh, yeah, yeah. Non lo sento io comunque, salutamelo da parte mia. Andate a lavorare! E l'Omega, ciao Graziano! E beh, ben sentito, ciao Tore, ciao Antonello, e ciao al Bubù, non lo sento neanche io! Caduto sì! Bello beh! Io non sono caduto, già sono qua, bello beh! Sono caduti gli altri. Tore Zeffarato. Non si sono occupato, si è varato tu. E ancora via. Ma che tu pescherai. Ebra già ancora, tu pescherai. Mi sa che io che la riga la pesca bene niente. Diglielo Antone. Io te l'appoggio. Sento che non c'entra ne bannunda. C'è con anche più di anche da che non ti intendo. Perché c'ho le mensurazioni. E poi te lo bannolino, buone. Bene, Antone, diglielo tu. Fai bene per le mensurazioni. Aspetta un attimo, grazie. Gio Maria. Se ti interessa, sto vendendo il 7009, quello piccolino, PMR, cosa si chiama? Dai, Zeta, grazie, che mi si accendi a Gio Maria, mi si accendi. Gio Maria, nulla da fare. Riprendi, grazie. Non farci caso, la vecchiaia sta andando e abbassando. Ui, poverino, quell'uomo. Deve essere in campagna, deve essere. E qua forse no, non arriva bene. Se rimaneva nel punto dov'era, allora sì. Cioè Mari, rimani nel punto dov'eri. Andata a fare, riprende Antonè. Sono prolungato con un cascione troppo. Tore. impinnato guida. Dottore, figlia. Guarda, Gio Maria ha detto che già ti sente bene. Siete voi sordi. Asco, cosa stai mettendo? Piedi d'anguilli con la gravidia. La be. No, un po' di pollo c'ho da fare. Oh, cazzo, ha giubato un boffetto a fare. Un polletto hamburghese con le patate. Niente arrosto. Domani polpetti. Colpettini sono, con il sughetto, buon avvio. Carinizia, per carità, penso io. Adesso c'è fatto il salciccione domani, sarò qua a rosso, se non piove. Cane di cavallo prendi. Ui, la gabbici, la giudici di dame, ne sono arrivati tre, fanno guardate la giù a darmi i buchi, Antonio, questa settimana. Oh, non mi piace più a me, sta garmi il saracchino. Come per granchi quell'imbecille non è apportato. Granchi, Alghero ti conviene scendere. Quelli grandi però, che già li compra anche Luca, non è a Veva. E chi da Luca al limite? Perché lui ci va spesso lì a Costa. A Palottose, magari trovo qualche peschereccio di mattina presto. Se hanno pescato granchi ti riferirà. A meno che non ci sia qualche negozio di Palottose, scusa le soglie. No, non quei granchi classici normali, no. Quelli grandi, i granchi uni, che sono grandi quanto la mano, anche più grandi. Ah, io non le mangio di quelli io, no. Oh. Sono granchi enormi, di chi sei normale ne fanno 5, 6, 7, sono grandi Antonetti, sì. Li spacchi in due. Il giopperoso ti piace, te lo do io. Quelli belli pieni insomma, i mi ammagni, altro che chi sa già un prosaglia di granchi normali, se 3 ore su ce ne non hai mangiato mica. Quelli lì almeno ti secciano. Già sono buoni qui. Ciao a tutti, dai, che sto facendo cosa. Buonasera, Claudio qua, dalle alture di Carbonazzi Street. Ciao a tutti, buona serata, riprendi tu. Sì, ok. Grazie, beh, Gio Maria che noi... Dammi me intendi, però là se non intendi, boh. Gio Maria! Io non lo sento, non arriva, in campagna. A me mi senti, Tore? Certo che ti sento, è forte pure, ok. Ehi, vabbè, sono col portatilino, dai, non sono con quello grande. Va bene, continuate, Gio Maria l'ho sentito appena, poi sparito. Sì, perché Gio Maria è dentro un fosso. E secondo, se si sposta, no, non lo sentiamo. Gio Maria! Io non lo so, è in campagna, quindi sto preso. Non è in campagna. Non è in campagna.